Salva Danaio di Deborah Rosciani. Una buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio, ultima puntata della settimana. Oggi facciamo un punto sui temi della previdenza complementare, approfittando della storia di copertina di domani di Plus 24 del Sole 24 Ore, che analizza l'andamento delle iscrizioni a fondi pensione e piani di previdenza individuali dall'inizio dell'anno. E tra l'altro prendiamo anche le mosse da una ricerca che è stata condotta da Asso Fondi Pensione, elaborando i dati della Covip, che è l'organismo di vigilanza appunto sui fondi pensione, sulle iscrizioni ai fondi nei primi sei mesi del 2010. Allora, questa ricerca che cosa ha evidenziato? Ha sottolineato come si sia registrato in questo periodo per la prima volta un calo degli iscritti ai fondi negoziali, quindi metalmeccanici, chimici e quant'altro, e come questo sia dovuto in gran parte all'aumento e dei licenziamenti, purtroppo molte persone hanno perso il posto di lavoro, ma anche da un'altra tendenza che si sta manifestando, cioè dalla decisione di un certo numero di lavoratori di rivolgersi ai piani individuali di previdenza promossi dalle assicurazioni private. Gli iscritti ai fondi pensione negoziali al 30 giugno di quest'anno risultavano essere 2.025.600 199, vi do proprio la cifra esatta, ed erano 15.000 in meno rispetto alla fine dell'anno scorso, rispetto al dicembre scorso. E allora, cosa è successo? Stamattina cercheremo di capirlo, ovviamente rispondendo anche alle vostre domande all'800240024. Intanto, con il capo cordata di questa storia di copertina di domani, non poteva che essere il nostro Marco Lo Conte. Marco, ciao, bentornato. Ciao, lo sai che qualche giorno fa un ascoltatore ha scritto chiedendomi quando torna Marco Lo Conte alla conduzione di Salva Danaio, no, te lo devo. No. E vabbè, sì, si sono. Da una parte sono contenta perché è un ascoltatore fidelizzatissimo, perché certo, ci ascolta da un sacco di anni. Però, insomma, ancora un po' mi turba questa cosa. Viva Rosciani, viva la Rosciani, viva sempre. E poi salutiamo Flavio Casetti, segretario generale di Asso Fondi Pensione. Dottor Casetti, benvenuto a Salva Danaio, buongiorno. Buongiorno a voi. Asso Fondi Pensione è l'associazione dei fondi pensione negoziali, e poi naturalmente dobbiamo sentire anche il versante delle assicurazioni private. Saluto Luca Omarini, responsabile sviluppo grandi clienti e nuove iniziative vita di Reale Mutua. Buongiorno e benvenuto anche lei. Buongiorno a tutti. Luca Marini, peraltro, era già stato un ospite di Salva Danaio negli anni passati, aveva un altro tipo di lavoro, però insomma è un esperto di queste tematiche, può aiutarci anche a capire in realtà quale ricetta magari proprio il settore delle assicurazioni private sta adottando per strappare questi iscritti ai fondi negoziali. Ma noi soprattutto stamattina, io vi ribadisco il numero verde 800240024, vorrei capire se siete appunto di quella parte di lavoratori che ha deciso di abbandonare il fondo negoziale per andare a sottoscrivere un'altra forma di previdenza complementare. Che cosa vi ha mosso verso questa direzione e quindi le motivazioni che sono alla base anche della vostra scelta? Nessuno vuole ovviamente dare un giudizio sulle scelte individuali, ma vorremmo cercare di capire appunto se siete tra coloro che hanno fatto una scelta piuttosto che un'altra. La borsa, prima di partire, borse stamattina che suscitano una certa attenzione, soprattutto Piazza Affari, che sta perdendo un punto e mezzo sul FTSE MIB. Le vendite si stanno accanendo sulle banche, Monte dei Paschi perde il 4%, UbiBanca meno 3,93, Intesa San Paolo meno 3,21, Unicredit meno 2,72, Popolare di Milano meno 2,52, Telecom meno 2,62, questo per la trimestrale che già ieri ha penalizzato pesantemente il titolo, Mediobanca meno 2,21, Azimut meno 2%. Qua davvero ci sono tutte le big di settore. Le motivazioni bene non le conosciamo, di fatto c'è ancora il mercato che si interroga sulla possibilità che Monte dei Paschi possa fare a breve un aumento di capitale, il gruppo continua ancora a negare questa eventualità, ma c'è anche un'altra cosa che riguarda Monte dei Paschi, che nei giorni scorsi, appunto non nei giorni scorsi, ieri, ha fatto sapere che è pronta a tornare sul mercato delle cartolarizzazioni dei mutui con un'operazione da 1,5 miliardi di euro, e probabilmente anche questo ha generato insomma qualche interrogativo da parte del mercato e trascina giù tutti i titoli bancari. Bene invece Tenaris, che sta guadagnando il 2% dopo la trimestrale migliore delle attese. Ancora sugli scudi la Galassia Fiat più 1,28, Exor più 0,76, Campari più 0,11. Questi sono gli unici quattro titoli con il segno più a Piazza Affari. Oggi una giornata importante per gli Stati Uniti, che ancora ovviamente testerà l'effetto della maxi manovra della Federal Reserve di due giorni fa, ma soprattutto abbiamo il dato sulla disoccupazione alle 13:30 ora italiane. Quindi monitoreremo attentamente anche la reazione di Wall Street rispetto a questa statistica, che è stata anche pesantemente, siccome il mercato del lavoro americano sapete bene che sta andando piuttosto male, insomma Barack Obama ha anche pagato pesantemente per questo con le elezioni di metà mandato e i risultati elettorali dei giorni scorsi. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, rifacciamo un punto sul tema della previdenza complementare. Costi superiori, ma anche flessibilità, servizi e una forte rete distributiva. Sono questi gli ingredienti alla base del successo dei PIP, i piani individuali pensionistici, che continuano ad attirare sempre più clienti, tanto da aver intercettato da inizio anno ad oggi oltre 3.000 fuoriusciti dai fondi negoziali. Si tratta di una forma pensionistica completamente individuale, attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita, che prevede una rendita vitalizia in relazione all'età di pensionamento. All'interno dell'universo dei PIP, naturalmente, si possono distinguere tipologie di prodotti molto differenti. Da compagnia a compagnia e da prodotto a prodotto possono variare le modalità di erogazione della rendita finale, le prestazioni collegate. Il punto in comune, che è poi ciò che sta alla base del loro successo, resta lo stesso: il ruolo decisivo del bancario, assicuratore o promotore finanziario, che spiega al potenziale aderente la convenienza dello strumento, offrendogli una consulenza. L'intermediario, in definitiva, è ben remunerato per queste attività e riscuote una provvigione correlata all'adesione del lavoratore, il quale è chiamato a pagarne il costo. Ma i maggiori costi sostenuti dal cliente sono sempre ben spesi? Quali sono i fattori da valutare con attenzione prima di compiere una scelta? 800240024 numero verde per le vostre domande. Vedo già che qualche ascoltatore si sta prenotando per intervenire. Un'ultima osservazione sul tema dei titoli bancari che stanno scendendo pesantemente stamattina. Sì, non avevo notato, me l'ha fatto notare la mia assistente di redazione Gaia Romani, che c'è anche un report molto pesante di Merrill Lynch, Bank of America Merrill Lynch, che ha tagliato i giudizi su tutti gli istituti italiani, quindi ha rivisto i prezzi a ribasso, ma sono le banche che si giudicano tra di loro. Questo è un tema che piace molto al nostro Sebastiano Barisoni a Focus Economia la sera, e effettivamente ci sarebbe da discutere anche su questo. Detto questo, andiamo al tema di stamattina: previdenza complementare. Allora, Marco Lo Conte, raccontaci un po' come avete articolato la storia di domani. Cosa è successo in questo mercato, chiamiamolo così, perché poi alla fine è anche questo? Chi ha intercettato tutte queste uscite dai fondi negoziali? Da dove sono usciti di più i lavoratori? Quali fondi sono stati più penalizzati? Beh, sono stati più penalizzati i fondi più grandi, evidentemente, che registrano il deflusso maggiore per numero di adesioni. Evidentemente Cometa ha registrato il deflusso più consistente verso iscrizioni ai piani individuali pensionistici. Si parla di centinaia, migliaia di passaggi, non di cifre straordinarie, ma che comunque denotano una tendenza a far sì che il mercato, la concorrenza all'interno del mercato, sia circoscritta soltanto a chi ha già aderito alla previdenza complementare, che corrisponde al 22% circa degli aventi diritto, ossia 2 milioni, poco più di 2 milioni di iscritti, mentre chi non ha una copertura di secondo pilastro, non ha una pensione di scorta, resta del tutto ai margini della contesa, come se a livello commerciale si desse per perduta questa parte estremamente maggioritaria del mercato dei lavoratori dipendenti potenzialmente aperti ad aderire alla previdenza complementare, e ci si concentrasse esclusivamente su chi una scelta l'ha già fatta. Quindi, diciamo, lo strumento della previdenza complementare ci crede, è forse più facile da strappare dall'altro strumento. Sì, forse sì, visto che la fatica decisionale è già stata compiuta, poi si sceglie. Ma è comunque la nostra ipotesi, è andata a cercare, come dire, delle prove sul terreno di come questo fosse veramente una politica commerciale da parte delle reti, oppure semplicemente una casualità, perché può anche capitare. E in effetti abbiamo visto che alcuni attori assicurativi hanno, diciamo, preso di mira alcuni fondi pensione, perché in maniera molto attenta, insomma, stanno cercando di sedurre gli iscritti e portarli. Ah, quindi ce n'è proprio qualcuno che è stato particolarmente preso di mira, ma forse sono i numeri che fanno la forza. Cometa ha il numero numero più grande di iscritti, quindi è evidente che, come dire, fisiologicamente è più facile strappare più persone da là. Questo no? Sicuramente, però ci sono attori attori delle reti assicurative molto attivi, più di altri, insomma, a strappare questi iscritti. Allora, per fare un'ulteriore verifica, siamo andati sul campo, come facciamo tante volte, con delle candid, allora ci siamo proposti come potenziali acquirenti, aderenti a un PIP. Ti sei vestito da chimico o da metalmeccanico? Cosa hai fatto? Ci siamo vestiti, non si dice mai chi va, ci siamo vestiti da addetti del settore dei servizi e ci siamo proposti a due strutture e abbiamo verificato, al di là dei nomi delle strutture, poi i lettori potranno approfondire domani su Plus 24, non anticipiamo tutti i dettagli, ma insomma abbiamo visto che se c'è una certa approssimazione nello spiegare in cosa consiste un PIP, come funziona uno strumento di previdenza complementare, qualche amnesia sui costi, qualcuno dice no, non costa nulla, poi c'è questo 4% sul prelievo, l'1,22% sui rendimenti, dice ma cavolo, meno male che non c'erano costi. Dove la consulenza funziona benissimo invece? Ma insomma, diciamo che quello che ha stupito è che invece dal punto di vista della capacità persuasiva gli addetti anche di strutture non particolarmente raffinate, insomma, le tecniche le conoscono, cioè appunto dire che è una cosa molto flessibile, sono strumenti estremamente trasparenti, flessibili, facili, ognuno decide, insomma le parole chiave dal punto di vista commerciale ci sono. Le parole chiave dal punto di vista previdenziale molto meno. Benissimo, allora abbiamo un minuto e mezzo di tempo prima di dare la nostra prima pausa. Riesco a sentire Flavio Casetti, segretario generale di Assofondi Pensione, che sicuramente negli ultimi mesi non avrà guardato con grande soddisfazione a questo travaso che si è consumato. Marco diceva le cifre non sono clamorose, ma sicuramente sono indicative di una tendenza che, se si consolida, potrebbe rappresentare per la vostra associazione, insomma per questa categoria, qualche problema in più. Ovviamente noi stiamo parlando di numeri, dottor Casetti, ma se dovessimo analizzare le motivazioni che hanno portato a questi spostamenti, bene, le forze commerciali, ovviamente le capacità persuasive dei promotori finanziari, degli agenti di assicurazione, e però ci potrebbe anche essere qualche motivazione legata all'insoddisfazione del lavoratore che aderisce al fondo negoziale? Ma io questo tenderei ad escluderlo. Intanto quest'altra volta faremo anche un'indagine sul trasferimento in ingresso, perché noi stavolta abbiamo controllato verso dove sono andati gli usciti dai fondi, i nostri 7.000 trasferiti, di cui 3.000 in modo volontario verso PIP. C'è anche il fenomeno inverso, bisogna dire. Certo, ma noi valutato, quindi questa è una prima osservazione. La seconda può solo spiegare con l'aggressività delle reti di vendita e con la pervasività delle reti di vendita. Pare che in Italia tutti quanti abbiano un cugino che fa il produttore assicurativo e quindi c'è questa capacità di proposta che ovviamente si ripercuote poi in maniera clamorosa sui costi. Io ho qui sotto la relazione Covid di anno scorso. Se qualcuno è disposto per essere curato un po' di più all'atto dell'adesione di rinunciare al 23% della propria prestazione finale, auguri, insomma. Io credo che siamo nel campo della simmetria informativa sul mercato. Mi pare questo sia l'aspetto prevalente. Dottor Casetti, allora io adesso devo andare in pausa, mi sembra un aspetto non trascurabile quello che lei sollecitava, e però insomma io voglio anche pensare che in un mercato che è così vasto e che offre così tante opportunità non siamo proprio così tutti quanti sprovveduti. Io speriamo che anche l'offerta del settore assicurativo sia mediamente valida, perché se no veramente, se addirittura nessuno prende in considerazione una riduzione della prestazione finale nella misura che lei ci citava, e allora qua veramente è un problema. Allora, da questo punto partiamo nella seconda parte della trasmissione. 800 24 00 24, il numero verde per continuare a sentire i vostri interventi, per continuare, non abbiamo ancora iniziato. È pronto Paolo da Roma, lo sentiamo tra pochissimo. E rimettiamoci le cuffie e ripartiamo con la nostra trasmissione. Questa mattina siamo ritornati a fare un punto sulla previdenza complementare. Dopo che nel famoso periodo del silenzio assenso, il famoso semestre in cui c'era bisogno di fare questa scelta, avevamo tanto battuto su questo tasto per potervi informare al meglio su questa rivoluzione epocale per il nostro paese, effettivamente questo lo denunciano in molti, lo dicevamo stamattina anche nella nostra chiacchierata preventiva alla trasmissione col dottor Casetti, insomma il tema è passato un pochino in secondo piano. Sicuramente anche le condizioni economiche generali adesso scoraggiano molti lavoratori a prendere seriamente in esame un tema come questo, soprattutto quelli che il posto di lavoro lo hanno perso, figuriamoci se hanno voglia adesso di pensare a quello che potrà accadere a loro fra 30 anni. E però, insomma, un faro ogni tanto bisognerà accenderlo, e allora lo accendiamo quando poi escono queste notizie come quella che è stata diffusa nei giorni scorsi e che ha evidenziato come molti lavoratori iscritti a fondi pensione negoziali, cioè di categoria, il Fonchim per i chimici, il Cometa per i metalmeccanici, il Fonte per il commercio e quant'altro, abbiano deciso di lasciare i fondi negoziali e aderire a forme di previdenza privata assicurativa. E allora, quali sono le caratteristiche di uno strumento piuttosto che di un altro? Cosa sta succedendo? Stamattina ne stiamo parlando con il nostro Marco Loconte. Questo è il tema di Copertina di domani di Plus 24. Flavio Casetti, segretario generale di Asso Fondi Pensione, e Luca Omarini, assicurazioni private, Reale Mutua. Omarini, adesso devo sentire anche per forza la sua campana su quello che è successo fino a questo momento. Intanto, a quanti fondi negoziali avete sottratto iscritti? Insomma, che strategie avete messo in campo? Peraltro, Casetti prima sollevava l'aspetto dei costi delle forme individuali di previdenza. Il vostro prodotto, da quello che capisco anche da una simulazione fatta da Plus 24, è tra i più convenienti del mercato, per cui non vi si può attribuire neanche questa nota di demerito. Omarini. Buongiorno a tutti. Allora, riprendendo il discorso del dottor Casetti, direi che... Omarini, la prego, non col viva voce perché non la sentiamo, okay, per niente. Grazie. Ci sono, scusate. Allora, stavo riprendendo il discorso del dottor Casetti e volevo fare anche dei distinguo, nel senso, da parte nostra non abbiamo messo in atto questa politica di trasferimento massivo e soprattutto di trasferimento da parte di fondi pensione di tipo negoziale. Infatti su poco più di 12.000 aderenti ai nostri due piani individuali pensionistici, solamente il meno dell'1% è rappresentato da lavoratori dipendenti. Questo è il primo dato. Il secondo è che è cresciuto nell'anno di una cifra inferiore allo 0,10%, quindi neanche quell'1% è stato fatto nell'ultimo periodo. La nostra è un'offerta molto, molto ampia e molto diversificata, che va dal fondo pensione aperto per i dipendenti. Il fondo pensione aperto è allineato e costruito appositamente per i lavoratori dipendenti, quindi per offrire dei costi in linea con quelli dei fondi pensione negoziali o quantomeno che si avvicini. E anche i PIP, come avete già sottolineato, sono strutturati in maniera diversa, ma uno ha dei costi assolutamente convenienti. Quindi il mercato se ha messo in atto questa cosa, questo trasferimento massivo, non è stato fatto da tutti ma da alcune realtà. Ci fa un esempio, quindi... Omarini, peraltro, visto che di costi stiamo parlando, qual è il vostro indice sintetico di costo, visto che è il più basso di tutti, anche per dare ai nostri ascoltatori un parametro di riferimento, perché magari se si sentono proporre oneri molto più alti è chiaro che o devono aspettarsi dei servizi stratosferici come contropartita, o comunque insomma possono anche cercare sul mercato qualcosa di più conveniente, a patto di ricevere prestazioni comunque equivalenti. Assolutamente, assolutamente. Parliamo del PIP 100 Stelle Reale, direi che la linea reale è linea prudente, è una delle migliori sul mercato nel brevissimo, è assolutamente la migliore sul mercato nel medio-lungo termine, perché arriva a 35 anni con un ISC dello 0,38%. Annuale, l'indice sintetico di costo viene calcolato annualmente. Il costo è calcolato in base alla Covid, con un versamento costante e all'anno, tenendo conto anche di tutte le prerogative. Tornando al discorso del trasferimento, direi anche che la Covid ha messo un paletto a livello di trasparenza, dicendo che in fase di collocamento e trasferimento, laddove è presente un fondo pensione negoziale, gli operatori di mercato sono obbligati a avvisare il potenziale aderente che c'è il rischio di perdere il diritto al contributo datoriale. Quindi anche in questo caso c'è un importante paletto Covip di informativa. Dottor Casetti, torno da lei. Allora, come sente, ovviamente non tutta l'offerta assicurativa si muove con delle strategie di grande aggressione sul mercato. C'è poi chi opera appunto con dei costi molto contenuti, con la comunicazione alla clientela all'insegna della massima trasparenza, ottemperando a tutte le indicazioni della Covip. Vuole aggiungere qualcos'altro rispetto a questo? Intanto, per esempio, un fondo negoziale mediamente quanto costa? Che indice sintetico di costo ha un fondo di categoria? Un fondo di categoria via, la media a 35 anni è lo 0,20. Per quindi... tutti, se io devo fare il ragionamento sul fondo di cui sono il direttore è lo 0,17, quello più basso è lo 0,41, il più alto. No, sui costi non c'è dibattito. Guardi, poi anche questa storia dell'aggressività, parliamo di due operatori di mercato, perché gli altri si comportano normalmente più o meno come fa Reale Mutua, del cui do atto della correttezza di comportamento e anche della dichiarazione. Ricordare il regolamento per la raccolta delle adesioni è preliminare, ma mi risulta che siano ben pochi che fanno presente al potenziale cliente la possibilità di avere il fondo, il contributo datoriale, l'attenzione all'ISC, quindi mi piacerebbe che i segnali che abbiamo non sono di questo tipo. Allora, ecco, aspetti un attimo Casetti. Marco, facciamo qualche nome e cognome, perché al merito, io conosco Reale, che è sicuramente un'assicurazione molto seria, ma stavo parlando comunque di un fondo aperto, non di un PIP. Ah, ecco, infatti c'è anche questo aspetto da considerare, perché noi stamattina stiamo un po' parlando della guerra tra i fondi negoziali e le forme private di assicurazione. C'è anche appunto la scelta intermedia, che è quella del fondo pensione aperto. Detto questo, dottor Casetti, Marco al dente avvelenato con un paio di aziende in Italia che dovevamo avere con noi questa mattina e che non per tutta una serie di impegni abbiamo organizzato anche all'ultimo momento questo argomento su Salvadanaio, però insomma la forza commerciale di Mediolanum è un dato di fatto, però ne hanno portati via tanti ai fondi negoziali. Certo, da ultimo anche Alleata Previdenza sta seguendo le stesse tracce. Sono questi due operatori su cui gran parte di quei 3.000 sono benissimo andati. Io quello che mi chiedo però adesso, Marco, vorrei tornare anche da te un attimo. Io capisco che ovviamente il promotore finanziario, se fa bene il suo lavoro, è chiaro che deve servire al meglio il suo cliente, convincerlo a sottoscrivere i prodotti che distribuisce e quant'altro, ma io non vorrei neanche pensare che tutti i lavoratori che sono stati portati via dai fondi negoziali siano così sprovveduti. Evidentemente saranno stati convinti anche. Allora, è evidente che, diciamo così, il fondo pensione negoziale costa poco, offre delle buone garanzie accessorie in ragione della convenzione che a suo fondo di pensione ha realizzato con alcune compagnie. Poi magari facciamo un punto su garanzie accessorie dell'uno o dell'altro strumento per capire anzi. Mentre i fondi negoziali, diciamo, hanno come lato debole la capacità consulenziale. Insomma, chi lo dice al lavoratore che ha altro per la testa e si occupa di altre cose, se è meglio scegliere la linea, il comparto che investe 50-50 obbligazioni azioni oppure 20-80. È complicato per chi non è un addetto ai lavori, e da lì ne dipende anche la salute della pensione futura. Questo è un po' il lato debole del fondo negoziale, la consulenza. Poi infatti, è chiaro che i costi sono certi, la consulenza si vede volta per volta se è andata bene, per cui il punto di forza dei fondi negoziali sono i bassi costi e buone garanzie accessorie. Il lato consulenziale è un lato, diciamo, meno di minor forza. I PIP hanno costi più alti sicuramente, una consulenza che potenzialmente è maggiore, poi ripeto, è da verificare, mentre per quanto riguarda le garanzie accessorie, questo è un elemento che ci ha colpito, non sono le polizze previdenziali non hanno garanzie mediamente, non hanno garanzie accessorie straordinariamente superiori a quelle dei fondi pensione. Per esempio, pochi, soltanto due soggetti hanno una copertura di controassicurazione, ossia in caso di decesso durante la percezione della pensione, il capitale restante va ai beneficiari o agli eredi. Questa è una cosa che soltanto due compagnie fanno, mentre i fondi pensione l'hanno già avviata a vantaggio dei propri aderenti. Può apparire una cosa lontana, una sciocchezza, ma in realtà ha un peso che tra l'altro va a decurtare anche le rendite, perché poi giustamente anche perché sono le compagnie assicurative che gestiscono le pensioni anche dei fondi pensione in un mandato molto ampio, non individuale ma collettivo, per cui evidentemente diciamo che la competizione, questo è il frutto di una concorrenza tra impari, tra soggetti molto diversi. Nel sistema italiano è stato messo dentro il secondo pilastro anche il terzo pilastro, cioè gli strumenti come PIP, che sono in tutto il mondo, sono strumenti individuali, sono strumenti di terzo pilastro. Ma quando si è decisa la riforma, per non dar fastidio a nessuno, per non escludere nessuno, si è deciso di mettere tutto insieme, facendo un po' un calderone e creando una concorrenza, come dicevo prima, un po' raffazzonata. Ecco. Allora, abbiamo un minuto di tempo prima di sentire i suggerimenti per chi è in viaggio, però il povero Paolo da Roma è lì a friggere da un po'. Paolo, buongiorno, ci scusi, ma qua veramente il dibattito richiederebbe almeno 3 ore di fila di chiacchiera. Paolo, buongiorno. Buongiorno, no, ma la consulenza, come abbiamo visto, non sempre c'è, quindi va benissimo. Grazie che ce lo riconosce almeno, va. Ci dica. Senta, no, io faccio parte invece di chi ancora non ha copertura, nel senso che sono un dipendente pubblico, sì. Sono in polizia. E quindi noi non abbiamo nulla che ci aiuta a rendere più corposa la nostra pensione, che vedremo quanto sarà. E la domanda era questa: nel caso in cui io in maniera individuale voglio aderire però a un fondo aperto, un PIP, che a me sembra appunto molto alla stregua di una vecchia assicurazione sulla vita, quelle delle polizze vita che prima venivano un po' offerte, se volessi aderire a un fondo aperto di mia iniziativa e qualora un giorno dovesse nascere un fondo di categoria, poi posso traslare il tutto, il maturato aperto, a quello di categoria? Certo, Paolo, grazie. Sentiamo adesso i suggerimenti per chi è in viaggio, poi le rispondiamo. È pronto anche Andrea da Pordenone, una marea di messaggi e speriamo di poter accontentare la maggior parte di voi. A tra poco. Allora, Luca Omarini, vorrei far rispondere a lei, all'ascoltatore, al nostro poliziotto, Paolo da Roma, che ci ha chiamato. Lui al momento non ha un fondo di categoria, perché i lavoratori della polizia non ce l'hanno. Allora, ammettendo che questo ascoltatore sottoscriva il vostro fondo pensione, no? E fra 3 anni magari la categoria si dota di un proprio fondo negoziale. Chiaramente voi farete di tutto per tenervelo, però teoricamente, insomma, sulla base della portabilità di cui la previdenza complementare è dotata, lui potrà eventualmente spostarsi e trasferire tutta la sua posizione nel proprio fondo? Assolutamente sì, la normativa prevede che dopo 2 anni si possa trasferire ad un'altra forma di previdenza complementare in ogni caso, e anche in precedenza se c'è un'adesione ad una forma di previdenza collettiva, quindi un fondo pensione di categoria. Benissimo, però insomma, Paolo, il tema anche è si sbrighi a fare una scelta, poi in un modo o in un altro, poi questo è un problema che, come dire, si esaminerà al momento in cui la categoria si doterà di un fondo. Omarini, mi rimango ancora con lei perché c'è un ascoltatore che fa questa osservazione sull'indice sintetico di costo che lei ci ha indicato prima relativamente alla linea prudente del vostro fondo pensione, del vostro fondo. Esattamente, lui dice sì, quel costo lì per una linea prudente a 35 anni, bella consulenza, gli chieda l'indice sintetico di costo sulle linee più dinamiche, più aggressive. Sono sempre così convenienti? Ma dipende, tenendo conto che c'è anche una componente caso morte, che è quindi una garanzia accessoria che noi diamo all'interno del prodotto, no, sulle linee più aggressive no, non siamo in questa linea, siamo nell'ordine dell'1,50 e del 2% sulla linea azionaria. Allora, volevo tornare a Flavio Casetti, Assofondi Pensione, per chiedergli un po' che cosa ne pensa rispetto a questo problema dell'attività consulenziale che comunque i fondi negoziali non sono sempre in grado di soddisfare. Molto lavoro negli anni passati hanno dovuto farlo i sindacati, i patronati. Devo dire che anche per la consulenza che ci hanno aiutato, che ci hanno dato a Salvadanaio, hanno fatto un lavoro egregio. E però, insomma, rispetto a un promotore finanziario che tu puoi chiamare ogni giorno, sicuramente la concorrenza non mi viene da dire leale, ma non è neanche così. Casetti, forse lì ci sarebbe stato da lavorare un po' di più. La consulenza non verte sugli aspetti, perché a volte ci si mette enfasi su questo fatto, se non si può discutere il prezzo discutiamo della qualità. No, siccome è un problema così complicato deve costare molto, la consulenza è molto semplice nella previdenza complementare. Da giovani si va su strumenti più aggressivi, da vecchi si va su strumenti con un rapporto rischio-rendimento più basso. E questo il sindacato, le reti delegati sindacali lo sanno far benissimo, cioè non occorre essere laureati alla London School of Economics. È tutta qui la consulenza sulla previdenza complementare, perché dall'altro punto di vista, nel rapporto col gestore finanziario, l'iscritto al fondo negoziale delega la sua associazione a trattare con il mercato dei gestori finanziari, non scegliendone uno per la vita, ma scegliendone periodicamente sul mercato i migliori. Noi facciamo le gare per scegliere i gestori, non è che ci sposiamo un gestore da 20 anni fino a 60. Lo so, però insomma il nostro è anche un paese, dottor Casetti, e lei lo sa, ne abbiamo parlato anche prima, che una cultura previdenziale di questo tipo la sta adottando solo da qualche anno a questa parte, perché siamo talmente abituati ad avere una buona pensione pubblica che questo è un tema che facciamo molta fatica a percepire, anche il tema, Marco, della questione anagrafica, dell'età, certo, che si va allungando, insomma, no, quindi lo so che lui la mette giù semplice, ma al meccanico di cui parlavamo prima, l'operaio che sta al tornio dalla mattina alla sera, sì, no, quello che posso sottolineare, è vero che possiamo anche farla semplice, e sicuramente non è sbagliato quello che ha detto Casetti, non è una panacea la soluzione di qualsiasi problema, però è evidente, ed è il buon senso ci porta a dire che i rischi maggiori te li prendi quando sei più giovane, quando hai più tempo per compensarli, quando addirittura ci sono delle discese, conviene rimanere investito, perché comprando a poco col tempo hai la possibilità di guadagnare, questo è giusto. Certo, il problema ci metto un altro aspetto, Marco, il problema è che tu questi rischi te li devi prendere non con 100 euro che puoi accantonare al mese, con il TFR, questo è un altro problema secondo me che ha determinato forse tutte le resistenze delle quali stiamo parlando stamattina. Sì, si può anche pensare di destinare il TFR a un comparto garantito e rischiare con una componente volontaria minore in termini percentuali sui mercati, però il punto è che cioè questo è un discorso di buon senso, il problema è che la realtà sta andando in un'altra direzione, visto che non esiste quella cultura previdenziale che tu sottolineavi poco fa, la maggior parte dei giovani iscritti, degli under 40, aderisce a delle linee che non sono azionarie, che non sono a maggior rischio ma sono a minor rischio, non esiste correlazione tra la scelta migliore e quello che è accaduto, se guardiamo le relazioni annuali della Covid degli ultimi anni e vediamo la composizione per età linea per linea, vedi che non c'è correlazione, cioè non è stato compiuto l'atto consulenziale giusto per portare le persone. Però la crisi finanziaria attuale ha portato questo, sicuramente una devastazione, è stato un problema emotiva in tutti C'è da registrare che molti fondi pensione stanno ideando, hanno provato in passato senza grandi risultati a creare degli accordi con i patronati, e ora i singoli fondi, alcuni singoli fondi, stanno avviando delle strutture consulenziali vere e proprie attraverso le proprie reti per fornire una consulenza anche frequente, anche non magari particolarmente raffinata, ma soprattutto frequente nei confronti degli aderenti, che faccia sentire vicino. Sostituisca un po' il promotore, in sostanza, ecco, perché come dicevo prima, lui quantomeno al telefono lo possiamo raggiungere frequentemente, il fondo negoziale non ha sempre una disponibilità fisica. Andrea della provincia di Pordenone, buongiorno. Sì, buongiorno. Il mio esempio è questo, mia moglie fa il medico, gli è stato presentato da un suo collega questo assicuratore di Inas Italia, e per proporgli un PIP, quando poi sono intervenuto per prendere atto della situazione, mi sono accorto che tutto lo staff dei medici di quel piccolo ospedaletto era assicurato con questo qua, al che mi sono fatto una analisi dei fondi che c'erano, fondi di pensione aperti, dei PIP che c'erano sul mercato, e ho presentato a loro i migliori. Ovviamente io ho portato mia moglie in un fondo pensione aperto. Anch'io sono passato da un PIP di Mediolanum in un fondo pensione aperto. Il punto è, voi parlate dell'indice sintetico dei costi, però signori, bisogna fare il punto su indice sintetico dei costi e performance. Certo. Io ho scelto un Pioneer che ha un azionario che ha un indice sintetico dei costi elevato, ma che ha delle performance esageratamente brillanti, e soprattutto che ha reagito molto, ma molto, ma molto bene in tempi di crisi come quelli passati. Ecco qual è il punto, non andare a guardare DSC perché continuiamo a guardare sui costi, ma guardiamo anche quello che mi torna. Certo, Andrea, io la ringrazio per la sua testimonianza, lei si rende conto che però è, come dire, pur dovendoci mettere in testa che tutti dovremmo avere il cuore il tema previdenziale esattamente nella misura in cui ce l'ha lei, Andrea, però lei capisce che non tutti hanno anche la capacità di avere una confidenza così alta con lo strumento finanziario, perché poi tendiamo anche ad essere molto scaramantici, questo è un problema che ci porremo prima o poi. Io la ringrazio per la sua testimonianza, speriamo che serva a spronare tutti gli altri, però Marco, non tutti riescono ad avere comunque una capacità di mettersi lì con 15 strumenti e fondi diversi sotto gli occhi per capire qual è meglio rispetto ad un altro. Però si può fare, fare, non è una cosa impossibile anche per chi non è addetto ai lavori. Noi nel nostro piccolo, al di là della copertina di domani, su Plus, nelle nostre tabelle in fondo mettiamo tutti i fondi pensione aperti e segnaliamo i giudizi che vengono dati a società specializzate basate su il rating su questi fondi pensione aperti, ossia la valutazione sulla capacità di mantenere costantemente una performance adeguata rispetto al mercato, rispetto alla concorrenza, quindi giudizi positivi in caso di risultati costantemente positivi. Non è impossibile, d'altronde è vero, per fare qualcosa di esagerato bisogna essere esperti, però l'importante è avere a cuore il proprio denaro e le proprie pensioni. Da lì si parte, poi magari si imparano le cose. Se le cose non si conoscono, si chiedono. L'importante è partire, essere curiosi. Infatti, no. Il nostro ascoltatore ha fatto la cosa più importante, informarsi, anche perché, piccola parentesi, i medici sono i peggiori investitori. Ecco. Perché sono attenti, fortunatamente, a ben altro, e non, spesso certo. non sono dei bravi amministratori delle proprie sostanze. Allora, io tra l'altro adesso devo salutare i nostri interlocutori, Flavio Casetti, Luca Marini, perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Io vorrei immaginarmi la scena in cui questo consulente finanziario ha capito come stava andando e che tutti i medici, insomma, stavano non tutti i medici, quando meno partendo dalla moglie di questo, chissà quando ha saputo, insomma, che questa persona stava facendo questa consulenza alternativa all'interno di questo piccolo ospedale, cosa avrà pensato. Detto questo, io saluto gli ascoltatori che oggi ci hanno veramente tempestato di tanti messaggi, ritorneremo evidentemente su questo argomento. Saluto un ascoltatore che è Gaetano, che ci teneva tanto a questo saluto. Noi ritorniamo lunedì a Salvadanaio. Buon fine settimana a tutti. Ciao Marco. Ciao, ciao a tutti. E la sigla, Peter, dov'è? Abbiamo terminato.